Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Da sempre la geografia precede la storia. È quella data conformazione del territorio che rende possibile quel certo carattere del popolo che lo abita. Ci sono però luoghi che più di altri sono in grado di plasmare e forgiare le persone, la loro forza, la loro espressione. Ma quando lo spirito universale decide di mescolare le carte, succede l'inaspettato e i confini naturali vengono superati dallo sconfinato mondo dell'anima. Oggi a Destini Incrociati si parla di paesi apparentemente agli antipodi, che però hanno trovato nel linguaggio universale della musica un punto di contatto. Si parla di tempo che scorre lento e porta con sé l'essenza di una cultura e il distillato di secoli di storia. Si parla della geografia dell'anima, che non ha confini invalicabili se si lascia fluire libera la gioia di vivere, andando nella rigorosa Germania, ma anche nella variopinta Cuba. Difficile decidere da dove partire, soprattutto se ci si addentra nel territorio di spartiti e note. L'ho imparata quando ero ragazzo. Chi suona è Máximo Francisco Repilado Muñoz. È un signore cubano di 90 anni e stringe tra le sue mani una specie di chitarra. Il tempo solca il suo viso, ma la sua vitalità fluisce dalle dita alle corde per risalire fino al sorriso aperto, sincero, vero, come la sua musica e la sua passione per la musica. Quando Francisco era un ragazzo, al tempo in cui, stando alle sue parole, ha imparato quel pezzo, sono gli anni 20. Mentre nei vicini e controversi Stati Uniti si suona il jazz, nell'isola caraibica si porta avanti la tradizione del son cubano, un ritmo dalle lontane origini. Cuba, il cui nome deriva dalla parola Cubanacan, che significa luogo centrale proprio per la sua posizione geografica, è stata negli anni oggetto di conquiste di ogni genere. Ogni popolazione che si è mescolata agli indigeni ha naturalmente lasciato il proprio segno, lasciando in eredità un carattere sfaccettato. Nella musica questo incontro ha dato origine al son cubano, un ritmo che unisce la tradizione musicale dei colonizzatori spagnoli ai ritmi degli schiavi africani. Alla fine dell'Ottocento, infatti, i trovadores, poeti e cantautori, coloro che trovano e inventano le storie, giravano Cuba raccontando nelle loro canzoni le vicende degli schiavi e dei colonizzatori. È su questa tradizione che nei primi anni del Novecento cominciano a formarsi gruppi di musicisti. Il son nasce nella parte est dell'isola, a Santiago, e proprio grazie ai gruppi di due, tre, ma anche sei persone arriva a L'Avana, diventando in breve il primo manifesto sonoro delle isole caraibiche colonizzate. Il primo gruppo che ha dato la spinta alla diffusione di questo genere musicale da cui discende la salsa è il Sexteto Habanero. Contrabbasso, percussioni, chitarre e le voci di tutti i componenti. Questo è il son cubano. Tra gli strumenti classici compare anche il tres, lo stesso che impugna Francisco Repilado con tanto amore da quando è un ragazzino. Lo strumento nato per accompagnare la musica tradizionale cubana, per accompagnare i trovadores. Simile a una chitarra, la cosa che distingue il tres da questa è la distribuzione delle corde, che sono raggruppate in tre coppie, tres, appunto, formando così tre corde doppie. Il suo suono è forte, acuto, simile a un altro strumento tipico di queste sonorità, il laud cubano, strumento di origine araba, ma che dopo una serie di contaminazioni ha trovato la sua forma caraibica. Ecco come ce lo racconta Barbarito Torres, un musicista cubano che, come tutti i cubani, suona praticamente da sempre. Desde niño, desde la edad de 10 años. Suono musica popolare da quando ho 10 anni. un mio strumento che si chiama laud è di origine araba. I Mori lo portarono in Spagna, dove subì la sua prima metamorfosi. Hanno ricostruito il laud con il collo più lungo. Alcuni trovatori se lo portarono a Cuba, dove subì la sua seconda metamorfosi, creando il laud cubano. La storia dell'isola, dettata anche dalla sua geografia, come abbiamo visto, ha lasciato una grande impronta nell'espressione musicale del suo popolo. La necessità di raccontare, di musicare delle storie, di dare forma universale alle vicende della vita, ha scandito anche la vita di Francisco Repilado, che nascendo agli inizi del Novecento ha avuto modo di crescere insieme alla tradizione del son. Sono gli anni in cui anche il jazz fa il suo primo ingresso nell'isola. E poiché nella diversità sta la vera crescita e la vera ricchezza, anche nelle orchestre cubane cominciano a entrare le trombe, i flauti, i clarinetti. Sono anche gli anni delle descargas, jam session dove gli amici si trovano con i loro strumenti per improvvisare su un unico tema, senza barriere di sorta tra generi musicali e nazionalità, solo per il gusto di condividere nel pieno della disponibilità verso l'altro. Sono questi gli anni di Benny Moré. Yo para querer no necesito una razón, me sobra mucho, pero mucho corazón. Mentre nei locali della Havana i giovani cubani suonano e ballano sulle note del son per condividere con gli altri la loro vitalità, nella lontana Germania, patria fra gli altri anche di Mozart e di Beethoven, ci si prepara al Terzo Reich sulle note della potenza del dramma della musica wagneriana, tanto cara a Hitler. Elemento di introspezione, il dramma ha una valenza quasi religiosa per Wagner, come se si svolgesse nella mente dello spettatore prima che attraverso la musica. È a Bayreuth che per la prima volta nella storia del teatro le luci vengono spente e l'orchestra è totalmente nascosta sotto il palcoscenico, come se la musica sorgesse magicamente dall'immaginazione dello spettatore. Atmosfere decisamente lontane da quelle più solari dell'isola caraibica. Ma gli anni della Seconda Guerra Mondiale per la Germania sono anche gli anni della musica di Marlene Dietrich, espatriata in America per non prestare il fianco alle avance del Führer, che l'avrebbe voluta come icona del nazismo. Con la sua Lili Marlene, l'attrice cantante dà supporto alle truppe alleate e in breve la fa diventare la canzone di tutti i soldati al fronte, trasmessa ogni sera dall'emittente tedesca di Belgrado. Bei der Kaserne, vor dem großen Tor. Saranno proprio gli alleati a lasciare, quasi come un'impronta indelebile insieme alla liberazione, anche una nuova musica nel vecchio continente, dove l'alone di libertà sembra proseguire attraverso quei nuovi generi, dal jazz al boogie, dal blues al rock and roll. Quando nell'agosto del 1945, solo una settimana dopo lo scoppio della bomba atomica a Hiroshima, a Düsseldorf, nasce Wim Wenders, l'America come spirito è ovunque. Soprattutto nella Germania divisa in due, costretta a ospitare suo malgrado la concretizzazione geografica della divisione tra Stati Uniti e Unione Sovietica. La stessa divisione che in un certo senso vivrà anche Cuba di lì a poco. Good evening, my fellow citizens. This government, as promised, has maintained the closest surveillance of the Soviet military buildup on the island of Cuba. È l'aprile del 1961. Gli americani tentano di sovvertire il governo di Fidel Castro, succeduto con la rivoluzione cubana del 59 al filo americano Fulgencio Batista, con lo sbarco nella Baia dei Porci. Operazione fallita, ma che porta Castro a cercare per motivi di opportunismo politico l'alleanza sovietica per fronteggiare gli americani. E nel 1962 arriva la crisi dei missili di Cuba, uno dei momenti di massima tensione nella Guerra Fredda sotto la guida Kennedy. Solo qualche mese prima, a Berlino si dà inizio alla costruzione del muro e sempre il presidente Kennedy parla di libertà e democrazia. Today, in the world of freedom, the proudest boast is, ich bin ein Berliner. Qualcuno dice che il comunismo rappresenti il futuro. Che vengano a Berlino. Così il presidente americano parla alla folla della Berlino Ovest, dichiarandosi per primo un berlinese. L'America sembra essere una specie di trade union tra l'isola caraibica e il centro d'Europa. Anche se controversa, la presenza americana è fondamentale per portarci all'incontro di oggi. Un incontro in grado di abbattere tutti i muri dei luoghi comuni, costruendo invece un ponte tra Germania e Cuba, passando per gli Stati Uniti. Wim Wenders, nel 1962, ha appena 17 anni. E nella sua testa c'è molta confusione, non solo per il contesto storico nel quale il suo paese è immerso, ma più banalmente per il suo futuro. Assillante è la classica domanda: cosa farò da grande? Per lui adesso l'America è rock and roll, l'America sono i film western, i fumetti Walt Disney, l'America è la gomma da masticare. Troppo giovane per pensare all'America della politica e della guerra fredda. Quando ero un giovane ragazzo, avrei davvero voluto fare qualunque cosa. Volevo fare l'architetto, volevo fare il prete, il pittore, lo scrittore, volevo fare anche il fotografo. E ovviamente avrei tanto voluto fare la rockstar. Wim, fin da ragazzo, si sente attratto dalla musica. Lui che viene dalla patria di Bach, Wagner, Beethoven, Strauss, vuole però allontanarsi da quell'eredità. È cresciuto con le nuove sonorità che ricordano a tutti il sogno americano, il sogno della libertà. Gli piace il sassofono, perché sa riunire la malinconia della sua terra con la grinta d'oltreoceano, ma anche perché è lo strumento di uno dei suoi idoli. Suonavo il sassofono, perché all'epoca mi sembrava una cosa molto cool, ma anche perché il mio eroe era John Coltrane. Il sassofono è solo l'inizio. Come già anticipato, il giovane Wenders ha le idee confuse sul suo futuro. Infatti cerca di seguire tutte le passioni che lo attraversano. Dopo un periodo passato a Parigi a studiare arte e dopo aver interrotto gli studi di filosofia e medicina, un giorno si mette in testa che deve girare un film. Un film in 16 mm, un film vero. Per hobby ha già girato molti corti in 8 mm, ma sente che forse è giunta l'ora di fare sul serio. E l'unico modo che ha per dare il via a questo nuovo stimolo è acquistare una cinepresa. Comincia però a fare i conti con la realtà. Il suo sogno si scontra con l'impossibilità di realizzarlo a meno di non rinunciare a qualcosa, come ricorda malinconicamente in un'intervista. Queste cineprese erano troppo costose. Un giorno ho trovato un banco dei pegni a Düsseldorf e lì c'era una Bolex da 16 mm che costava circa 1000 marchi, che non avevo. Così ho preso il mio sassofono e ho chiesto al ragazzo del negozio quanto mi avrebbe dato. E lui disse 1000 marchi. Se non avessi rinunciato al mio sassofono, non avrei potuto avere la cinepresa. Così sono tornato a casa e ci ho pensato 3 giorni. Poi sono tornato al negozio col mio sassofono e ho comprato la cinepresa. Spesi tutti i miei soldi per fare il mio primo film e non mi ripresi mai indietro il mio sassofono. E quella fu anche la fine della mia carriera musicale. L'ho rimpianto da allora. E con ogni film e con le musiche che utilizzo in ogni film, cerco di compensare quella perdita. La musica poteva essere il suo futuro. Quel banco dei pegni ha posto un bivio sulla strada di Wim Wenders. Da allora non c'è giorno che non passi pensando ad essa e al segno lasciato nella sua anima. Non solo perché avrebbe potuto essere una carriera alternativa, ma perché il rock and roll, come ha detto in un'intervista alla rivista Rolling Stone, ha salvato la vita alla sua generazione. Il rock and roll ha tirato fuori un'intera generazione dal suo isolamento. Non soltanto l'ha liberata da qualcosa, ma l'ha portata verso qualcosa, verso la realizzazione della sua stessa creatività. E questo è stato l'incanto del rock degli anni 60. Ha aperto la gente al piacere e alla possibilità della loro stessa immaginazione. Wim Wenders intraprende così con un piccolo rimpianto la sua carriera cinematografica, non sapendo ancora che un giorno sarebbe stato, grazie al suo lavoro di regista, la fortuna di un musicista. Nel frattempo, insieme a Werner Herzog e a Rainer Werner Fassbinder, Wim, sulla scia della Nouvelle Vague francese, fonda il movimento del nuovo cinema tedesco. Immerso nella filmografia europea, ma guardando sempre a quella americana, coltiva il sogno di poter un giorno approdare alle produzioni statunitensi. Nel 73 è l'anno di Alice in città. il primo della trilogia dei road movies, ispirato a una canzone di Chuck Berry che compare tra gli attori nella parte di se stesso. Spesso i miei film cominciano da una canzone. Alice in città, per esempio, è cominciato con una canzone di Chuck Berry nella mia testa. Il rock e la musica in genere sono sempre nel suo cuore. Ma è con il film L'amico americano che finalmente si fa notare dal regista Francis Ford Coppola e salpa per l'America. Era un periodo difficile della mia vita. Francis mi aveva invitato in America per girare un film. Avevo appena finito L'amico americano. Francis l'aveva visto, gli era piaciuto. E pensò che io potessi essere il tipo giusto per lavorare nei suoi nuovi studios. Aveva appena fondato gli Zoetrope Studios. Aveva deciso di fare il Gran Mogol del cinema americano, come Selznick, e di realizzare una sessantina di film all'anno. Ero la sua cavia. Ho fatto il primo film. Ci sono voluti 4 anni. Francis in 3 anni ne fece solo altri 2, anziché 60. Ne produsse 3 in tutto. Il film in questione è Hammett, tratto dal giallo dello scrittore Joe Goris. Ma la produzione, come ricorda il regista, è stata travagliata. A Coppola non convince nulla, nella sceneggiatura, nella regia. Dopo anni di lavorazione, fa riscrivere e rigirare tutto. Nessuno dei due è mai stato produttore se non delle proprie pellicole. In questo caso entrambi vogliono avere l'ultima parola. Lavorare insieme è davvero difficile. Alla fine viene conservato forse il 10% del primo girato. L'ordine di Coppola è di girare tutto in studio, basta esterni. Wenders, se non ha alternative, accetta. Vuole finire il film. Il periodo americano per il regista tedesco comincia non sotto i migliori auspici, anche se adesso lo ricorda sorridendo. Il primo giorno di riprese, mentre preparavo la mia cinepresa, vidi uno strano cavo che si perdeva nello studio. Girammo il primo Chuck, quando improvvisamente dall'alto arrivò una voce. Non riuscivo a capire da dove. Una voce simile a quella del padrino, che gridò: «Vim, questa ripresa mi piace!» Io non potevo vederlo, ma la voce di Francis echeggiava dovunque. Quel piccolo cavetto conduceva direttamente nel suo ufficio. Infatti aveva un monitor con il quale controllava tutto quello che giravo e un microfono con il quale poteva parlarmi continuamente. Ma io non potevo rispondergli. Il periodo americano è anche quello dello Stato delle cose del 1982, che racconta la vicenda di un regista rimasto senza soldi e pellicola per continuare a riprendere. Patrick Bauhau, nel ruolo dell'attore principale, viene premiato col Leone d'Oro al Festival di Venezia. I film di Wenders cominciano a farsi notare. I riconoscimenti non tarderanno ad arrivare anche per lui. Intanto sono gli anni Ottanta. E gli Stati Uniti, patria della musica con la quale il regista è cresciuto, gli forniscono l'occasione di conoscere un grande chitarrista che proprio in quel periodo, dopo alcune collaborazioni illustri, come quella con i Rolling Stones, sta uscendo con una serie di album da solista. Si chiama Ray Cooder. Un artista che al teutonico Wenders piace perché con la sua Fender Stratocaster è in grado di esplorare generi del passato quasi dimenticati, rielaborandoli senza perdere di vista una certa continuità. Come nel rifacimento di Little Sister di Elvis Presley. Wenders ancora non sa che Cooder sarà il ponte americano che lo collegherà a Cuba, dando così corso al destino. Destini incrociati. Gli anni Ottanta sono appena cominciati e il regista tedesco Wim Wenders è in America per girare alcuni film. Il rock and roll è la sua passione. Lui, che è cresciuto con la liberazione degli alleati nella Germania occupata, sente un legame particolare con quella musica che trasuda libertà. Durante la sua permanenza negli Stati Uniti conosce il chitarrista Ray Cooder. Si piacciono subito e così cominciano a parlare di progetti da fare insieme. La musica per Wenders è come l'eco dell'anima del mondo che lo sprona a produrre la sua arte. Ray Cooder è il compagno ideale per accompagnarlo nel suo nuovo film. L'esperienza americana sta per finire, poiché è troppo diversi i linguaggi e troppo frustrante la standardizzazione del sistema produttivo hollywoodiano. Ma il regista vuole realizzare un film ambientato nei mitici luoghi dei film western, i film della sua adolescenza. Chi meglio della chitarra di Cooder può far emergere quelle atmosfere, far riconoscere allo spettatore la voce dello spirito che si mescola tra le immagini? Scusa, ma tu sei già stato qui da me l'altro giorno. Forse sono indiscreta. No. Ho creduto di riconoscere la tua voce. No, non è possibile. Nel 1983 esce Paris, Texas, l'ultimo film realizzato da Wenders negli Stati Uniti e film che consacrerà il regista al successo. La colonna sonora è proprio di Ray Cooder. Attrice e protagonista è una giovane Nastassja Kinski. Il film viene girato interamente negli Stati Uniti in lingua inglese, ma è da considerarsi a tutti gli effetti un film tedesco, poiché tedesco è il regista, tedesca è la troupe e tedeschi sono i capitali investiti nell'operazione. Il prodotto finale è talmente estraneo ai gusti degli americani che non ottiene molto successo nel mercato USA, mentre in tutta Europa costituisce il caso cinematografico dell'anno. Nel 1984 vince la Palma d'Oro a Cannes. Alors, la Palma d'Oro, c'est Paris, Texas. La musica ha avuto un ruolo decisivo. Quella musica che in tutta la vita di Wenders ha costituito una grande fonte di ispirazione, adesso più che mai lo lega al suo lavoro. Qualche volta ho sperato di poter fare un film come se fosse una canzone rock, perché credo che i cantanti rock possano prendersi molte più libertà dei registi. Libertà che si condensano nella brevità dell'emozione trasmessa rispetto ai tempi lunghi di un film. Comunque, le canzoni, il rock, la musica in genere sono sempre più il vero stimolo per Wenders, la vera chiave di lettura delle sue pellicole. Come racconta lui, fare un film senza musica è rischioso per il film stesso. Quando ho cominciato a fare il regista, pensavo che il più bel complimento che mi potessero fare era: che belle le immagini. Quando me lo dicono adesso, penso di aver sbagliato qualcosa. Perché le immagini devono servire la storia, devono essere subordinate alla storia e vanno protette. L'unico modo che ho trovato per proteggerle sono la musica e le parole. E credo che se le immagini stanno nel contesto della storia, perché hanno bisogno di essere messe in un contesto, la migliore protezione che conosco, e quella che mi piace usare di più, è la musica. Fare un film senza musica non solo è totalmente inutile, ma è anche pericoloso, perché le immagini sono nude, non protette, e rischiano di ammalarsi o addirittura di morire. L'incontro con Ray Cooder avviene quindi proprio in un momento proficuo per il regista, quando la musica arriva a scorrere le sue immagini e si mescola prepotentemente alla sua vita professionale. L'amicizia col chitarrista lo porterà nel corso degli anni a fare il salto decisivo in questa direzione, facendolo incontrare con l'altro protagonista di oggi. Intanto, i successi per Wim dopo Paris, Texas, proseguono. L'87 è l'anno de Il cielo sopra Berlino, per il quale Cannes lo premia come regista. E infine, negli anni 90, arriva un altro film dalla colonna sonora importante, dove partecipano i Talking Heads, Lou Reed, Nick Cave, i Rem e gli U2. Until the End of the World. Wim e Ray si frequentano, si scambiano opinioni su nuovi progetti da fare insieme. In fondo hanno questa passione in comune per la musica, di qualunque genere essa sia. Finché un giorno a Cooder capita un imprevisto, come racconta lui stesso, che lo porterà a coinvolgere Wenders in una nuova avventura. My friend Nick Gold of World Circuit Records in London called me. Il mio amico Nick Gold di una casa discografica inglese mi ha chiesto di raggiungerlo a Cuba per registrare un disco di musica cubana con musicisti campesinos e musicisti dell'Africa occidentale. L'idea sembrava fantastica, non era mai stata realizzata prima. Quando siamo arrivati in aeroporto, Nick ci dice che gli africani sono bloccati a Parigi. Cosa facciamo? Alla fine abbiamo deciso di portare avanti l'iniziativa con chi fosse stato disponibile e abbiamo cominciato a chiedere in giro. Cuba, l'isola del son, dei trovadores, degli strumenti musicali come il tres, il laúd, l'isola dove la musica è ovunque, è pronta ad accettare la sfida, registrare un disco. Sono lontani gli anni d'oro, tutti quei talenti che agli inizi del secolo hanno dato l'avvio al ritmo caraibico, fatto di contaminazione africana e spagnola, hanno infatti dovuto reinventarsi dopo la rivoluzione. Tra questi anche Francisco Repilado, nipote di una delle ultime schiave nere di Santiago di Cuba, che aveva cominciato a suonare negli anni 20, il periodo della grande fioritura del son. Nasci nel 1907. Sono nato nel 1907, sulla costa in riva al mare, a Siboney. Ho vissuto lì con mio padre. Era macchinista sui treni delle miniere. Beh, sono rimasto a Siboney fino all'età di 9 anni. Fu allora che mia nonna morì. Poi andai a Santiago con i miei fratelli. Ma non potevo andarmene da Siboney prima che morisse mia nonna. Lei mi diceva, finché io non muoio, mio nipote, cioè io, non può lasciarmi. Io li accendevo i sigari, avevo 5 anni, mi diceva, su, accendimi un sigaro, e io lo facevo, già a 5 anni. Lo accendevo e poi lo passavo alla nonna, che se lo fumava. Beh, si può dire che io fumo da 85 anni. I sigari, così come la musica, sono con lui da sempre. Mentre nella lontana Germania Benders viene alla luce, Francisco Repilado incontra Lorenzo Jerezuelo, fondando il duo dei Los Compadres. A quel periodo risale il suo nome d'arte, dovuto al fatto che fosse la seconda voce, diventando per tutti Compay Segundo. Compay Segundo. Compay non ha mai smesso di amare la musica e di suonare neppure nei momenti più difficili della sua vita. Ma quando l'embargo ha portato nell'isola seri problemi economici, è stato costretto ad andare a lavorare in una fabbrica di sigari dell'Havana. Quando nel 1997 si sparge la voce che c'è un progetto che prevede l'incisione di musiche della tradizione e che vuole coinvolgere musicisti cubani, questo vecchietto di ormai 90 anni non manca all'appello. Come ricorda Ray Cooder. Ci siamo trovati in una stanza piena di persone, incluso Compay Segundo, Elías Ochoa, Ibrahim Ferrer. Sono solo alcuni dei nomi che hanno fatto la canzone cubana e che sono purtroppo caduti nell'oblio. Adesso è un po' come se il tempo, condensato nei loro visi, nelle loro esperienze, nella loro bravura, cercasse lo spazio per riemergere, con tutta la sua simbologia, in una Cuba che per molti è solo la rossa, ultimo baluardo di un'utopia che non ha trovato una realizzazione, con la decadenza delle case color pastello dell'Havana e delle vecchie arrugginite Buick e Cadillac parcheggiate in strada. Una cosa è certa, è incredibile scoprire che i miti delle origini del son cubano sono ancora vivi e hanno voglia di suonare come allora, come ricorda Cooder. Scoprire che quasi tutte queste persone erano ancora vive e stavano bene, anche se dimenticate, sempre felici di suonare, generose, pronte a mostrarti il loro talento e la loro esperienza. È stata un'esperienza fantastica, come se mi fossi preparato a questo da tutta la vita. Queste cose accadono solo una volta nella vita. La vera svolta, soprattutto per chi ha raggiunto la veneranda età dei 90 anni come Compay Segundo, è dietro l'angolo, ma ha bisogno di un altro elemento. Ray Cooder cerca di coinvolgere anche l'amico Wim Wenders, che nella musica ha sempre visto la sua fonte di ispirazione. A Wim non sembra vero. Questo progetto ha il sapore di una rivoluzione e soprattutto sembra avere la forza per salvare la memoria di chi ha fatto la storia della musica. Tra poco, a Destini Incrociati. Por el camino del sitio mio, un carretero alegre passò. Con su canzone che muy sentida y muy guajira alegre cantò. La carreta me voy el trabajador. Destini incrociati. È il 1997. Il chitarrista americano Ray Cooder ha chiesto all'amico regista Wim Wenders di seguirlo a Cuba per un nuovo progetto. Si tratta di documentare la realizzazione di un disco con i miti della musica cubana, tra cui l'ormai novantenne Compay Segundo. Per chi come il regista tedesco ha sempre messo al primo posto la musica, non ci sono dubbi. È un'occasione da non farsi sfuggire. Il disco che Cooder ha in mente di registrare con i vecchi, e il caso di dirlo miti del son cubano, prenderà il nome da uno dei locali della Habana, dove i super abuelos, i super nonni, come li chiama affettuosamente lui, suonavano da giovani. Il Buena Vista Social Club. Wenders è elettrizzato. Quella musica, quelle sonorità, gli rimandano cose che non ha mai sentito prima. Fare un film dove la musica è la vera protagonista, finalmente, è il sogno che si realizza. L'esperienza non è solo professionale. Entrare in contatto con queste anime è un'occasione unica. Come unica è la loro accoglienza. Non appena Ray mi presentò dicendo: questo è il mio amico Wim, ha deciso di fare un film sulla registrazione del nostro album, per voi va bene? Loro furono ben felici. La maggior parte del tempo eravamo con loro, cercando di essere invisibili, lasciandoli fare con naturalezza. Ma quando non giravamo, ci chiedevano: che succede? Non vi piace più quello che facciamo? Spesso ci prendevano in giro. La trama musicale si intreccia con la storia, perché la musica è cinema a modo suo. Wim si limita a registrare l'evento, accompagnando col suo tocco un sodalizio tra uomini che sanno vivere le loro emozioni musicali, documentando un'amicizia che nasce dal pentagramma e ridonando la magia di una Cuba che a molti è sconosciuta. Il sorriso di Compay, il suo sigaro, il suo cappello in testa e la sua vitalità nell'affermare a gran voce, dall'alto del suo quasi secolo di storia, di volere un altro figlio, fanno pensare al regista tedesco di essere di fronte al segreto dell'eternità. E finché avrò sangue nelle vene, amerò le donne. Perché nella vita le donne, i fiori, il romanticismo sono quanto c'è di più bello. Una notte romantica non ha prezzo. Non ha prezzo. Ed io non me lo sono scordato. Con i miei 90 anni e con i miei 5 figli, adesso sto pensando al sesto. Ne voglio ancora uno. Questi sono gli eroi che decidono di rimettersi a suonare, di vivere la vita. Cooder, con la sua chitarra, entra sempre in punta di piedi. Il recupero della tradizione è ormai nelle sue corde. Un recupero nel rispetto delle radici, come racconta lui stesso. Perché erano loro a suonare la musica e a suonarla bene. Specialmente Compay Segundo, che era semplicemente perfetto. Facevo quello che mi diceva, sempre cose complementari al loro stile. Cercavo di essere uno di loro e di suonare per la musica, perché ognuno si muoveva in quella direzione. Ogni tanto facevo delle cose che loro non avrebbero fatto, ma che mi piaceva provare per vederne l'effetto. Ma sono loro a sapere cosa fare per questa musica. Il progetto funziona. Balena l'idea di farli suonare tutti insieme in una tournée in giro per il mondo. I nonni si divertono, improvvisano, inforcano i loro strumenti, schiariscono le loro voci e partono. Compay Segundo per primo. Aquí en la playa María, como se gusta. Aquí en la playa María, tú me provocas. Lui è il più vecchio, quello con più esperienza, quello che ha davvero visto nascere la tradizione musicale cubana. Si muove per le strade dell'Havana come un vero protagonista, con al suo seguito la macchina da presa. Pur avendo dichiarato di volere vivere fino a 115 anni, sa che questa è l'ultima occasione di ritornare sulla scena a prendersi la fama che negli anni gli è stata negata. Sa che Cooder e Wenders sono il suo biglietto da visita per l'immortalità, almeno quella artistica. Così li accompagna per la città con un Montecristo acceso in bocca, il suo classico abito chiaro a far risaltare la carnagione scura, marchio delle sue origini, e il Panama in testa. Al passaggio di ogni signorina non manca di farle un complimento. Il suo segreto per la longevità è fumare, bere rum e fare all'amore, tutto con moderazione. Il regista tedesco, che per la prima volta si trova a doversi dimenticare di una storia da seguire, si immerge con la camera da presa nella vita vera. Loro sono come sono, senza pretendere di essere nessun altro. Quella musica è la loro esperienza di vita. Quella musica è la loro cultura. Non è come una seconda grande esperienza, ma è un'esperienza di prima mano. E poi è una musica sexy, è divertente. Sta nascendo un vero documentario, come non ne ha mai fatti prima. Girato con una strumentazione nuova, snella, veloce, ma soprattutto con la musica, quale unico vero soggetto da sviluppare. C'è voluta Cuba e un amico americano per rendere possibile il sogno abbandonato insieme a un sassofono da un giovane ragazzo tedesco. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Dopo qualche settimana tutto è pronto. Gli strumenti, le canzoni, le voci, i protagonisti. Il passato inteso come esperienza, ricordo, memoria è presente più che mai nei racconti, nel talento, nell'entusiasmo di questi splendidi ottantenni. Non c'è solo Compay Segundo. Ci sono Ibrahim Ferrer, Omar Aportuondo, la Edith Piaf dei Caraibi, Rubens Gonzalez, Eliades Ochoa e tanti altri che hanno fatto la storia della musica cubana. Adesso sì che si può partire alla conquista dell'America. Nella testa di tutti loro c'è la Carnegie Hall, come racconta Ray Kuder. Penso sia stato fantastico. Mentre lavoravamo insieme durante il film, mi chiedevano sempre: ma quando andiamo alla Carnegie Hall? Anche loro la conoscevano, tutti la conoscono. È una Mecca, una destinazione. E questo accadde. E già questo da solo è un miracolo, perché approdare alla Carnegie Hall significa fare un tremendo lavoro di preparazione. Il loro è un fiume in piena ormai. Tutto il mondo li attende. 1 luglio 1998. Eccoli tutti sul palco del Tempio della Musica Classica e Leggera di New York, la Carnegie Hall, che nel lontano 1904 ospitò anche Richard Strauss. E a proposito di Strauss e della tradizione musicale di Wim Wenders, ecco come il regista ricorda il concerto dei Buena Vista Social Club a Vienna. Erano a Vienna, all'Opera House, ed hanno avuto una standing ovation di 20 minuti. Non è mai successo nella storia viennese dell'Opera House, nemmeno quando ci suonava Strauss. In ogni apparizione pubblica, Wim è lì con la sua digitale a riprendere, in silenzio, immergendo la sua macchina da presa nel fiume della loro musica. Ray Kuder e la sua chitarra sono sullo sfondo. La scena è tutta di queste meraviglie della natura. Gli applausi fioccano fragorosi dall'inizio di ogni concerto e Compay Segundo, in prima fila col suo tress e il suo sorriso, si fa riempire i polmoni con quell'aria che sa di successo meritato. Amsterdam, Vienna, New York, il mondo intero li applaude. Nel 1999 il disco Buena Vista Social Club vince il Grammy Award. Milioni le copie vendute e un grande film a testimoniare il viaggio di preparazione alla loro trasformazione in star internazionali. Compay Segundo, che ormai da decenni non faceva concerti, comincia a esibirsi in tutti i palcoscenici più importanti del mondo e incide ben 9 dischi. Nell'ultimo, intitolato Duets, duetta con stelle internazionali tra le quali Cesaria Evora, Charles Aznavour e l'attore Antonio Banderas. Le sale si riempiono sempre quando le sue dita premono con passione sulle corde del suo strumento. Con che tristezza miramos a un amor che se nos va. Compay ci lascia il 14 luglio del 2003 all'età di 95 anni. Con le sue canzoni, la sua allegria, la sua smorfia di accesa vitalità sotto le falde del suo cappello bianco, che come un fermo immagine ci rimanda a un suono, quello della gioia del mondo, Come ricorda Wenders nell'introduzione al libro che scrisse con la moglie sull'esperienza cubana, aver conosciuto questi talenti è davvero un privilegio. Essere lì nel momento in cui si stava svolgendo questa storia incredibile, poter accompagnare questi musicisti nel loro cammino dall'oblio totale fino al palcoscenico della Carnegie Hall, questo è stato un dono e un privilegio impareggiabile e al tempo stesso una singolare lezione per le generazioni future, una lezione di dignità e umiltà. Destini incrociati. Destini incrociati. Testi di Morena Rossi e Simone Spoladori. Redazione Chiara Santilli e Isabella Marini. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.